parlava de bon mattino al portal, mentre se il sole aspettava gli escarus veio passar. Si sente che no veus l'estaca a uno stento spiegas, si no se vende spenden mai no se vren caminar. Si aspiren tozze gli a caura i mol de temps no può durar. Segu che tomba, tomba, tomba, ben curcade Deu se già. Si tu respires cor per chi, i jo l'estiru cor per gli. Segu che tomba, tomba, tomba, i es putreva libera. Che si sente coste tanto, e costa forse morire, torna a medire il teu canto. La vita si sente no viures, almen che salve in purtà. E chi sa capo chi n'indre, i gioa sotto al portal. I quam passeras dos veglies, e stiro al gol per cantar. Por per gli a, seguo